Orlando, parte seconda. Quindi, Orlando e Sasha, come la chiamava per brevità e perché era il nome di una bianca volpe russa che aveva avuto da ragazzo, una bestiola morbida come la neve ma dai denti d'acciaio che lo aveva morso così crudelmente che suo padre l'aveva fatta uccidere, avevano tutto il fiume per loro. Accaldati dalla corsa sui pattini e dall'amore, si gettavano in qualche canale solitario dalla riva frangiata di canne gialle e Orlando, avvolto in un ampio mantello di pelliccia, la stringeva tra le braccia e conosceva, per la prima volta, sussurrava, le delizie dell'amore. Poi, finita l'estasi, mentre giacevano sul ghiaccio, cullati dal rapimento, egli le parlava dei suoi amori precedenti e di come, paragonati a lei, fossero stati di legno, sacco e cenere. E lei, ridendo di tanta veemenza, gli si gettava di nuovo tra le braccia e per amore dell'amore gli chiedeva un nuovo amplesso. Allora si meravigliavano che il ghiaccio non fondesse al loro ardore e compiangevano la povera vecchia che, priva di quei mezzi naturali per scioglierlo, doveva spezzarlo con un'ascia di freddo acciaio. E poi, avvolti nello zibellino, parlavano di tutto quel che si trovava sotto il sole. Di paesaggi e di viaggi, di mori e di pagani, della barba del tale, della carnagione della tal'altra, di un topo a cui Sasha dava da mangiare nella sua mano, a tavola, dell'arazzo che a casa di lui nella sala si muoveva sempre, di un viso, di una piuma. Nulla era troppo piccolo per i loro discorsi, nulla era troppo grande. Poi, improvvisamente, Orlando cadeva in uno dei suoi accessi di malinconia. Poteva esserne causa la vista della vecchia che zoppicava sul ghiaccio, o forse nulla. Allora si gettava a bocconi sul ghiaccio, guardava dentro l'acqua gelata e pensava alla morte. E ben ha ragione il filosofo dice che solo lo spessore di una lama separa la malinconia dalla felicità e giunge a credere che l'una sia gemella dell'altra. E ne trae la conclusione che tutti i sentimenti estremi confinano con la follia. E ci esorta, di conseguenza, a rifugiarci nella vera chiesa, a suo parere quella anabattista, solo rifugio, porto, ancoraggio, eccetera, eccetera, diceva, per chi è sballottato da tanto mare. Tutto finisce nella morte, diceva Orlando, alzandosi scuro in volto. Perché ora così lavorava la sua mente, in violenta altalena tra la vita e la morte, senza tappe intermedie, cosicché nemmeno il biografo può permettersi di fermarsi, ma deve volare più veloce che può per tenere il passo con le imprevedibili, appassionate, folli azioni, con gli improvvisi, stravaganti discorsi a cui, impossibile negarlo, Orlando indulgeva a quell'epoca. Tutto finisce nella morte, diceva Orlando, mettendosi a sedere sul ghiaccio. Ma Sasha, che dopo tutto non aveva sangue inglese, ma veniva dalla Russia, dove i tramonti sono più lunghi, le albe meno improvvise e dove le frasi restano spesso a metà, nel dubbio di come meglio finirle, Sasha lo fissava, forse prendeva le distanze da lui, poiché certo doveva sembrarle un bambino e non diceva nulla. Ma alla lunga il ghiaccio si raffreddava sotto di loro, cosa che le piaceva poco, così lo costringeva a rialzarsi e parlava con tanto incantevole spirito e buonsenso, purtroppo però sempre in francese, che notoriamente in traduzione perde il suo profumo, che lui dimenticava le acque gelate, o la notte imminente, o la vecchia, o qualunque cosa, e cercava di dirle, affondando e sguazzando tra mille immagini ormai stantie, come le donne che le avevano ispirate, a che cosa rassomigliava. Neve, crema, marmo, ciliegie, alabastro, filigrana d'oro, nulla di tutto ciò. Lei era come la volpe, o come l'ulivo, come le onde del mare viste dall'alto di una scogliera, come lo smeraldo, come il sole su una collina verde ancora avvolta di nubi, come nulla che avesse visto o conosciuto in Inghilterra. Per quanto saccheggiasse il linguaggio, le parole lo tradivano. Avrebbe voluto un altro paesaggio, un'altra lingua. L'inglese era troppo diretto, troppo candido, troppo sdolcinato per Sasha. Poiché in tutto ciò che lei diceva, per quanto franca, per quanto voluttuosa sembrasse, c'era qualcosa di nascosto. In ogni suo atto, per quanto ardito, c'era qualcosa di segreto. Così la fiamma verde sembra nascosta nello smeraldo o il sole prigioniero nella collina. La chiarezza era solo esteriore, dentro c'era una fiamma inquieta. Andava e veniva. Sasha non splendeva mai col fermo chiarore della donna inglese. Ma a questo punto, ricordando Lady Margaret e le sue gonne, la trascinava via con impeto selvaggio, sfrecciando sul ghiaccio, veloce, sempre più veloce, giurando di dar la caccia a quella fiamma, di tuffarsi per prendere la gemma e così via, così via. E le parole gli uscivano anelando dal petto con la passione del poeta a cui la morsa del dolore quasi spreme la sua poesia. Ma Sasha taceva. Quando Orlando aveva finito di dire che era una volpe, un ulivo e una collina verde e le aveva raccontato per intero la storia della sua famiglia, come la loro casa fosse tra le più antiche d'Inghilterra, come i suoi avi fossero venuti da Roma coi Cesari e avessero il diritto di scendere per il Corso, la via principale di Roma, sotto un baldacchino a frange, privilegio riservato, diceva alla gente di sangue imperiale, c'era in lui una credulità orgogliosa ben divertente. Si fermava e la interrogava. Dov'era la sua casa? Chi era suo padre? Aveva fratelli? Perché era qui sola con lo zio? Poi, benché lei rispondesse abbastanza prontamente, si insinuava tra loro un certo imbarazzo. Dapprima Orlando la sospettò di essere di rango meno alto di quanto avrebbe voluto, o che si vergognasse dei costumi selvaggi del suo popolo, perché aveva sentito dire che in Moscovia le donne portavano la barba e che gli uomini erano ricoperti di peli dalla cintola in giù. Che maschi e femmine si ungevano di sego per proteggersi dal freddo, spezzavano la carne con le dita e vivevano in tuguri in cui un nobile inglese si sarebbe fatto scrupolo di tenere il bestiame. Perciò evitò di sollecitarla. Ma riflettendo, concluse che non potevano essere quelle le ragioni del silenzio di lei per quanto la riguardava, e il suo mento non mostrava peli di sorta, si vestiva di velluto e perle e le sue maniere non erano certo quelle di una donna cresciuta in una stalla. Allora che cosa gli nascondeva? Il dubbio che minava l'immensa forza dei suoi sentimenti era simile a sabbie mobili sotto un edificio che improvvisamente si muovano e facciano tremare l'intera costruzione. Improvvisamente lo afferrava l'angoscia. Allora prorompeva in un tale furore che lei non sapeva come calmarlo. Forse quelle furie le piacevano e le provocava di proposito. Tale è la curiosa tortuosità del temperamento moscovita. Riprendiamo il racconto. Spintisi, pattinando, più lontano di quanto avessero desiderato, un giorno raggiunsero quella parte del fiume dove le navi avevano gettato l'ancora ed erano rimaste imprigionate nel ghiaccio. In mezzo alla corrente. Tra di loro c'era la nave dell'ambasciata moscovita che spiegava la nera aquila bicipite all'albero maestro, da cui pendevano ghiaccioli multicolori lunghi parecchie tese. Sasha aveva lasciato a bordo parte del suo guardaroba e, supponendo che la nave fosse vuota, salirono sul ponte per andare a cercarlo. Ricordando certe esperienze passate, Orlando non si sarebbe stupito se qualche buon cittadino avesse cercato rifugio là, prima di loro. E così accadde. Non si erano spinti molto lontano, quando un bel giovanotto, intento a qualche sua faccenda, spuntò da dietro un rotolo di gomene. E spiegando, in apparenza perché parlava in russo, che faceva parte della ciurma e che avrebbe aiutato la principessa a trovare quel che cercava, accese un mozzicone di candela e sparì con Sasha nel ventre della nave. Il tempo passava e Orlando, preso dai suoi sogni, pensava solo ai piaceri della vita, a quella della sua perla, alla sua rarità, al modo di farla irrevocabilmente e indissolubilmente sua. Ostacoli e difficoltà da superare non mancavano. Lei era decisa a vivere in Russia, dove c'erano fiumi gelati e cavalli selvaggi e uomini, diceva, che sapevano sgozzarsi a vicenda. Per la verità, un paesaggio di pini e neve e abitudini lussuriose e sanguinarie non lo seducevano, tantomeno era ansioso di abbandonare le piacevoli consuetudini campagnole, andare a caccia, piantare alberi, di gettar via la sua carica, di rovinare la sua carriera, di cacciare la renna anziché il coniglio, di bere vodka anziché vino delle Canarie e di portare un coltello infilato nella manica senza sapere a che scopo. Eppure, questo e altro avrebbe fatto per amore di lei. Quanto al suo matrimonio con Lady Margaret, benché fosse fissato di lì a 8 giorni, era una cosa così palesemente assurda che ci pensava a malapena. I parenti di lei l'avrebbero vituperato per aver abbandonato una grandama, i suoi amici l'avrebbero deriso per essersi rovinato la carriera più bella del mondo per una donna cosacca e un deserto di neve. Ma tutto questo Pesava meno di una pagliuzza sulla bilancia, paragonato alla persona di Sasha. La prima notte senza luna avrebbero preso il volo, si sarebbero imbarcati per la Russia, così meditava Orlando, così almanaccava camminando su e giù per il ponte. Si riscosse quando, voltosi a occidente, vide il sole sospeso come un'arancia sulla croce della cattedrale di San Paolo. Era rosso sangue, scendeva rapido, doveva essere quasi sera. Sasha era assente da più di un'ora. Colto d'un tratto da quegli oscuri presentimenti che offuscavano anche i suoi pensieri più fiduciosi su di lei, scese a precipizio sotto coperta dove aveva visto sparire i due, e dopo essere incespicato al buio tra casse e barili, li scorse a un debole lucore seduti in un angolo. Per un secondo ebbe chiara la visione. Vide Sasha seduta sulle ginocchia del marinaio, la vide piegarsi verso di lui, li vide abbracciarsi prima che la rabbia gli spegnesse la luce in una nube rossa. Gettò un tale urlo d'angoscia che l'intera nave echeggiò. Sasha si lanciò tra i due, altrimenti il marinaio sarebbe stato strangolato prima di poter estrarre il suo coltellaccio. Poi un malore mortale sopraffece Orlando e dovettero stenderlo sul pavimento e fargli bere del brandy finché non rinvenne. Poi, quando si fu ripreso e seduto sul ponte, sopra una pila di sacchi, Sasha si curvò su di lui, fluttuandogli dolcemente davanti agli occhi intontiti, insinuante, come la volpe che lo aveva morso, ora carezzevole, ora accusatoria, tanto che giunse a dubitare di quel che aveva visto. Forse la candela gocciolava, forse le ombre si muovevano, la cassa era pesante, diceva lei, l'uomo l'aiutava a spostarla. Per un momento Orlando le credette. Chi può essere sicuro che l'ira non gli dipingesse quel che più temeva di trovare? Ma un momento dopo infuriava con maggiore violenza contro il tradimento di lei. Allora a sua volta Sasha sbiancò, batté il piede sul ponte, disse che sarebbe partita quella notte e invocò i suoi dèi perché la fulminassero se lei, una Romanovic, si era abbandonata tra le braccia di un volgare marinaio. Per la verità, guardandoli insieme, cosa che si decise a fare a malincuore, Orlando si indignò per l'infamia della propria immaginazione, che aveva potuto dipingergli una creatura così fragile tra le zampe di quel villoso bruto marino. Era un uomo imponente, alto quasi 2 metri, senza scarpe, con rozzi cerchi di ferro alle orecchie. Sembrava un cavallo da tiro, su cui per un attimo si fosse posato uno scricciolo o un pettirosso. Così Orlando si arrese, le credette e le chiese perdono. Tuttavia, mentre, di nuovo teneri, scendevano dal fianco della nave, Sasha si fermò con la mano sulla scala e in russo lanciò verso il mostro olivastro dalle grandi mascelle una raffica di saluti, scherzi o moine di cui Orlando non poté capire una parola. Ma nel tono di lei c'era qualcosa, forse era colpa delle consonanti russe, che gli ricordò una scena di qualche sera prima, quando l'aveva sorpresa a rosicchiare di nascosto in un angolo un moccolo di candela che aveva raccolto da terra. È vero che era rosa, dorata e veniva dalla tavola del re, ma era sego e lei lo rosicchiava. Non c'era in lei, pensava Orlando mentre l'aiutava a scendere sul ghiaccio, qualcosa di basso, un effluvio volgare, un che di contadino. E la immaginò a 40 anni, appesantita e indolente, benché ora fosse snella come una cerva e vivace come una allodola. Ma mentre pattinavano verso Londra, di nuovo sentì quei sospetti fondergli in petto. E si sentiva come addentato per il naso da un grosso pesce e trascinato per l'acqua a tutta velocità contro il suo volere, eppure col suo consenso. Era una sera di sorprendente bellezza. Al cadere del sole tutte le cupole, le guglie, le torri, i pinnacoli di Londra spiccavano in un nero d'inchiostro contro il tumulo rosso di nubi. Ecco la croce dentellata di Charing. Là la cupola di San Paolo, là il massiccio basamento quadrato della Torre di Londra e là, come una macchia d'alberi senza più foglie, tranne un ciuffo sulla cima, ecco le teste mozze sulle picche di Temple Bar. Ora, nella fantasia di Orlando, le finestre dell'abbazia si accendevano e ardevano come un multicolore scudo celeste. Ora tutto l'Occidente pareva una finestra d'oro. Con schiere d'angeli, sempre nella fantasia di Orlando, che salivano e scendevano perpetuamente le celesti scale. Pareva loro di pattinare sempre su insondabili abissi d'aria, tanto il ghiaccio era diventato azzurro e di tale vitrea levigatezza che essi scivolavano sempre più velocemente verso la città, coi bianchi gabbiani che roteavano loro intorno e con le ali disegnavano in aria le stesse volute che loro tracciavano sul ghiaccio coi pattini. Sasha, come per rassicurarlo, era più tenera del solito e più deliziosa che mai. Raramente gli parlava della sua vita passata, ma ora gli raccontò che d'inverno in Russia ascoltava l'urlo dei lupi che attraversava la steppa e per dimostrarglielo fece per 3 volte l'ululato del lupo. Allora lui a sua volta le raccontò dei cervi sulla neve a casa sua che si spingevano in cerca di calore fin nel grande atrio dove un vecchio li nutriva con un secchio di pappa d'orzo. Lei allora lodò il suo amore per gli animali, la sua galanteria, le sue gambe. Rapito da quelle lodi, vergognandosi al pensiero di averla calunniata, immaginandola seduta sulle ginocchia di un volgare marinaio e grassa e abulica a 40 anni, Orlando le rispose che non trovava parole per lodarla, ma subito pensò che assomigliava alla primavera, all'erba verde e alle acque in corsa, e stringendola ancora di più, di slancio la trascinò con sé fino a metà del fiume, tanto da far svolare anche i gabbiani e i cormorani. E quando infine si fermarono senza fiato, lei a sua volta gli disse, ansando dolcemente, che somigliava a un albero di Natale splendente di milioni di candele, come ce ne sono in Russia, e carico di globi gialli, incandescente, tanto luminoso, da rischiarare tutta una strada, poiché, così si potrebbe tradurre l'immagine, con le sue guance accese, i riccioli neri, il vestito nero e scarlatto, egli sembrava ardere di luce propria, irradiando un fuoco interno. Forché il rosso delle guance di Orlando, presto ogni colore si spense. Scese la notte e all'arancio svanito del crepuscolo subentrò il prodigioso bagliore bianco delle torce, dei falò, delle lanterne accese e di quant'altro illuminava il fiume. Avvenne la più strana delle trasformazioni. Chiese e palazzi nobiliari dalle facciate di pietra bianca apparivano come strie e macchie fluttuanti nell'aria. Di San Paolo in particolare restava solo una croce dorata. L'abbazia era ridotta allo scheletro grigio di una foglia. Ogni cosa si emaciava, si disincarnava. Avvicinandosi al carnevale, Orlando e Sasha udirono una nota profonda, come emessa da un diapason che crebbe di intensità fino a un rombo. Ogni tanto un gran grido seguiva l'ascesa di un razzo. Gradatamente cominciarono a distinguere delle figurine che si staccavano dal mare di folla, incrociandosi su e giù come libellule sull'acqua di un fiume. Sopra, e intorno a quel cerchio di luce, come un calice di buio, gravava il nero fondo di una notte d'inverno. E poi, in quel buio, tra pause che mantenevano viva l'attesa e aperte le bocche, cominciò ad alzarsi una fioritura di razzi, di mezzelune, di serpenti, una corona. Per un momento i boschi e le colline lontane verdeggiarono come in un giorno d'estate. Un attimo dopo, tutto tornò inverno e buio. Intanto, Orlando e la principessa, giunti vicino al recinto reale, si trovarono la via sbarrata da una gran folla di plebei che si accalcavano, quanto l'audacia glielo permetteva, a ridosso del cordone di seta. Riluttanti a mettere fine alla loro intimità e a fronteggiare quegli sguardi penetranti sempre allerta, la coppia indugiò tra la folla, sbatacchiata tra garzoni di bottega, sarti, pescivendole, mercanti di cavalli e cacciatori di frodo. E studenti affamati, serve in cuffietta, venditrici di arance, garzoni di stalla, cittadini contegnosi e loschi tavernieri, e un nugolo di monelli cenciosi, di quelli che non mancano mai ai margini di una folla e che urlando sgattaiolano tra le gambe della gente. C'era insomma tutta la marmaglia delle strade di Londra, gente che scherzava e sgomitava, e chi giocava a dadi, chi prediceva la fortuna, chi spingeva, chi solleticava, chi pizzicava. Qui i chiassosi, la cupi, gli uni con un palmo di bocca spalancata, gli altri meno composti, di cornacchie sul tetto di una casa. Tutti variamente agghindati, a seconda della borsa o della condizione. Chi in pelliccia e panno, chi in stracci, coi piedi avvolti soltanto da un cencio a proteggerli dal ghiaccio. La calca maggiore sembrava stiparsi davanti a una baracca, o piuttosto un palco, qualcosa di simile ai nostri teatrini di avanspettacolo, dove si svolgeva una specie di rappresentazione teatrale. Un uomo nero agitava le braccia e vociferava. Su un letto giaceva una donna vestita di bianco. Benché la messa in scena fosse rozza, con gli attori che entravano e uscivano per una scaletta di 2 gradini, talvolta inciampando, col pubblico che pestava i piedi e fischiava, e se si annoiava gettava sul ghiaccio bucce d'arancia che un cane era pronto ad afferrare, la sorprendente, sinuosa melodia delle parole commosse, orlando come una musica. Pronunciate con un'estrema rapidità, con un'audace abilità di linguaggio che gli ricordò il canto dei marinai nelle birrerie di Wapping, le parole, anche senza significato, erano per lui come un vino. Ma di tanto in tanto, sopra il ghiaccio, gli giungeva una frase, come strappata dalle profondità del suo cuore. La frenesia del Moro gli pareva la sua stessa frenesia, e quando il Moro soffocò la donna sul suo letto, era Sasha che lui uccideva con le sue mani. Finalmente il dramma terminò. Ora tutto era buio. Le lacrime gli scorrevano lungo il viso. Alzando lo sguardo al cielo, anche lassù non vide che tenebre, rovina e morte, pensò. Coprono ogni cosa. La vita dell'uomo finisce nella tomba. I vermi ci divorano. Ora mi sembra che una vasta eclissi di sole e luna faccia gridare di paura il mondo. Citazione dall'Otello di Shakespeare. Mentre diceva questo, una pallida stella gli sorse nella memoria. La notte era nera, nero pece, ma era una notte così quella che avevano atteso. In una notte così avevano deciso di fuggire. Ricordò tutto, loro era giunta. In uno scoppio di passione, strinse a sé Sasha e le sibilò all'orecchio, «Jour de ma vie!» Era il loro segnale. A mezzanotte si sarebbero incontrati in una locanda vicino a Blackfriars. C'erano dei cavalli ad attenderli. Tutto era pronto per la fuga. Così si separarono. E lei tornò alla sua tenda, lui alla sua. Mancava ancora un'ora al momento fissato. Molto prima di mezzanotte Orlando era già in attesa. La notte era di un nero così fondo che un uomo poteva esservi accanto prima che lo vedeste, cosa senz'altro positiva. Se non che era anche di una calma così solenne che lo zoccolo di un cavallo o un grido di bambino si sarebbero uditi a mezzo miglio di distanza. Più di una volta Orlando, misurando coi passi il cortiletto, trattenne il battito del cuore al greve rumore dello zoccolo di un ronzino sul selciato o al fruscio di una veste femminile. Ma il viaggiatore era solo un mercante che rincasava a tarda ora, oppure qualche donna del quartiere, la cui passeggiata era molto meno innocente. Passavano e la strada era più quieta di prima. Poi le luci che brillavano al piano terra, negli stretti tuguri dove i poveri della città vivevano ammassati, salirono alle stanze da letto e si spensero a una. Le lanterne in quei paraggi erano per lo più rare e per l'incuria delle guardie notturne spesso si spegnevano molto prima dell'alba. Allora l'oscurità si faceva più fitta che mai. Orlando guardò il lucignolo della sua lanterna, esaminò le cinghie della sella, caricò le pistole, saggiò gli speroni, compì tutte quelle azioni almeno una dozzina di volte, finché non trovò più nulla che esigesse la sua attenzione. Benché mancassero ancora 20 minuti a mezzanotte, non sapeva decidersi a entrare nella saletta della locanda, dove lo stessa serviva ancora dell'auxerre e del più scadente vino delle Canarie a pochi marinai. Sempre seduti là a vociare in coro le loro canzonacce e a raccontare storie di Drake, di Hawkins e di Grenville, finché piombavano giù dalle panche e rotolavano addormentati sulla sabbia del pavimento. Al suo cuore gonfio di passione era più pietoso il buio. Tendeva l'orecchio a ogni passo, congetturava su ogni rumore, ogni grido di ubriaco, ogni gemito di un poveretto che giaceva su un pagliericcio o in qualche altro miserabile stato, gli pungeva il cuore nel vivo come un presagio nefasto. Non che temesse per Sasha, aveva un coraggio che prendeva alla leggera l'avventura. Sarebbe venuta da sola, in braghe e mantello, calzata di stivali come un uomo. Il suo passo, così leggero, si sarebbe appena udito anche nel gran silenzio. Così Orlando attendeva nella notte. A un tratto gli colpì il viso, su un lato della guancia, un soffio molle ma greve. La sua tensione per l'attesa era tale che trasalì e mise mano alla spada. Il soffio si ripeté una dozzina di volte, sulla fronte, sulle guance. Il freddo secco era durato tanto a lungo che gli ci volle un minuto prima di accorgersi che erano gocce di pioggia. Quei soffi erano le raffiche di pioggia. Caddero, dapprima lente, costanti, a una, ma presto, da 6, diventarono 60, poi 600, infine scrosciarono in un forte acquazzone. Pareva che il cielo, duro e solido, si rovesciasse in una cateratta. In 5 minuti Orlando fu bagnato fino al midollo. In fretta mise i cavalli al riparo e si rifugiò sotto l'architrave della porta, da dove poteva continuare a osservare il cortile. L'aria, ora, era più spessa che mai e dallo scroscio si alzava un vapore e un sibilo tale che né passo d'uomo né d'animale avrebbe potuto soverchiarlo. Le strade, piene di grosse buche, sarebbero state inondate d'acqua, forse impraticabili. Ma quasi non si fermò a pensare alle probabili conseguenze di questo fatto sulla loro fuga. Tutta la sua attenzione e il suo sguardo erano fissi sul vicolo selciato, che traluceva al lume della lanterna, là da dove sarebbe venuta Sasha. A volte gli pareva di scorgerla nel buio, avvolta di strie di pioggia, ma il fantasma spariva. D'improvviso, con voce tremenda e minacciosa, voce colma di orrore e d'allarme che strinse l'animo di Orlando in un brivido angoscioso, l'orologio di San Paolo batté il primo colpo della mezzanotte. Altre 4 volte batté senza rimorso. Con la superstizione di un amante, Orlando aveva deciso che lei sarebbe venuta al 6° colpo. Ma il 6° colpo svanì echeggiando, e venne il 7° e l'8° e al suo animo ansioso parvero dapprima un annuncio, poi un decreto di morte e di rovina. Quando risuonò il 12° colpo, seppe che la sua condanna era decisa. Era inutile che ragionasse logicamente. Sasha poteva aver fatto tardi, poteva essere stata trattenuta, poteva aver perso la strada. Il cuore appassionato e preveggente di Orlando sapeva la verità. Altri orologi batterono striduli l'uno dopo l'altro. Il mondo intero pareva scampanare la notizia del tradimento di Sasha, del ridicolo di Orlando. I vecchi sospetti che lavoravano sotterranei in lui balzarono allo scoperto dal loro nascondiglio. Fu morso da un groviglio di serpenti, l'uno più velenoso dell'altro. Stava lì sulla soglia, immobile, sotto il tremendo scroscio. Col passare dei minuti gli si piegarono un po' le ginocchia. L'acquazzone continuava a imperversare. Dal suo fitto sembravano tuonare rombi di cannone, si udivano fragori cupi come di querce schiantate e spaccate, e grida selvagge e terribili e grugniti inumani. Ma Orlando rimase là, immobile, finché l'orologio di San Paolo batté le 2. Allora, gridando con orrenda ironia e scoprendo i denti, «Jour de ma vie!», fracassò a terra la lanterna, balzò in sella e partì al galoppo, senza meta. Un cieco intuito, poiché non ragionava più, dovette fargli seguire la riva del fiume verso il mare, perché quando, con rapidità inconsueta, l'alba spuntò, tingendo il cielo di giallo pallido, la pioggia, quasi cessata, si trovò sulle rive del Tamigi, al di là del Wapping. Allora uno spettacolo della natura più straordinaria gli si offrì alla vista. Laddove da più di 3 mesi c'era ghiaccio solido, di tale spessore da sembrare immutabile come pietra, e che aveva fatto da basamento a un'intera Gaia città, correvano turbolenti flutti gialli. Nella notte il fiume si era liberato. Era come se una sorgente sulfurea, opinione a cui propendevano molti filosofi, fosse sorta dalle regioni vulcaniche sotterranee, facendo scoppiare il ghiaccio con tanta veemenza da spazzar via furiosamente grevi blocchi massicci. Tutto era tumulto, caos. Il fiume era sparso di montagne di ghiaccio. Alcune erano larghe, come un prato, e alte, come una casa. Altri pezzi non erano più grandi di un cappello, ma tagliati nella forma più bizzarra. Ora un'intera fila di blocchi discendeva la corrente, mandando a fondo tutto ciò che incontrava. Ora, mulinando e torcendosi come un serpente torturato, il fiume pareva dibattersi tra quei frammenti, sbattendoli da una riva all'altra, con tanta forza che li si udiva rompersi contro le banchine e i pilastri di pietra. Ma la cosa più orrenda e terrificante era la vista delle creature umane che erano state colte in trappola durante la notte e ora correvano su e giù per quelle isole sbattute e precarie in preda alla più tremenda angoscia. Sia che si gettassero tra i flutti o che restassero sul ghiaccio, la loro condanna era certa. A volte un vero grappolo di queste povere creature scendeva insieme il fiume. Chi stava in ginocchio, chi nutriva i neonati. Un vecchio pareva leggere a voce alta un libro sacro. A volte, ed era forse la sorte più spaventosa, uno sventurato isolato misurava a gran passi il suo stretto isolotto, e mentre venivano travolti verso il mare, si udivano alcuni gridare invano aiuto, abbandonarsi a ciechi propositi di pentimento, promettere altari e ricchezze se Dio avesse ascoltato le loro preghiere. Altri erano così sopraffatti e sbalorditi dal terrore che sedevano immobili e muti, guardando fisso davanti a sé. Una ciurma di giovani marinai o postiglioni, a giudicare dalla loro tenuta, sbraitava e urlava a squarciagola le più sconce canzoni di taverna, come per spacconeria, e vennero sbattuti contro un albero e annegarono con la bestemmia sulle labbra. Un vecchio gentiluomo, tale lo dichiaravano, l'abito guarnito di pellicce e la catena d'oro, affondò non lontano da Orlando, gridando vendetta contro i ribelli irlandesi che, urlava con l'ultimo fiato, avevano complottato quella diavoleria. Molti perirono stringendosi al petto un vaso d'argento o un altro tesoro, e almeno una dozzina di poveri disgraziati annegarono per la loro cupidigia, precipitandosi dalla riva nella corrente, piuttosto che lasciarsi sfuggire un calice d'oro o vedersi sparire davanti agli occhi qualche vestito ornato di pelliccia. Su pellettili, oggetti di valore di ogni specie venivano infatti trasportati via sulle lastre di ghiaccio. Tra questi strani spettacoli si poteva vedere una gatta che allattava i suoi piccoli, una tavola riccamente imbandita per 20 persone, una coppia a letto, oltre a un numero incredibile di utensili da cucina. Stupito e atterrito, per un po' di tempo, Orlando non seppe fare altro che stare a guardare la furia spaventosa dei flutti che passavano, avventandoglisi davanti agli occhi. Infine, parve riprendersi, dette di sprone al cavallo e partì di gran carriera lungo la riva in direzione del mare. A un'ansa del fiume si trovò di fronte a quel canale in cui, neanche 2 giorni prima, le navi degli ambasciatori sembravano immobilmente attanagliate dal ghiaccio. In fretta le contò: quella francese, quella spagnola, quella austriaca, quella turca. Galleggiavano ancora tutte, benché quella francese avesse rotto gli ormeggi e quella turca imbarcasse rapidamente acqua da una gran falla nel fianco. Ma la nave rossa non si vedeva. Per un momento Orlando pensò che fosse colata a picco, ma alzandosi sulle staffe e facendosi schermo con la mano agli occhi, acuti come quelli di un falco, poté ancora scorgere all'orizzonte la sagoma di una nave. Le aquile nere fluttuavano all'albero maestro. La nave dell'ambasciata moscovita faceva vela verso il mare aperto. Balzato di sella nel suo furore, Orlando fece come per lanciarsi in un corpo a corpo coi flutti. Con l'acqua alle ginocchia urlò verso la donna infedele tutti gli insulti che sono sempre stati prerogativa del suo sesso. Infedele, incostante, volubile, gridava, demonio, adultera, ingannatrice. E le acque turbinose si portarono via le sue parole e gli gettarono ai piedi una pentola rotta e una pagliuzza. Capitolo secondo. Qui il biografo si trova di fronte a una difficoltà che è meglio confessare piuttosto che aggirare. Fino a questo punto, nel raccontare la vita di Orlando, documenti privati e storici ci hanno reso possibile adempiere al primo dovere di un biografo, che è quello di procedere senza guardare a destra o a sinistra, sulle orme indelebili della verità, senza lasciarsi sedurre da fiori né intimidire da ombre, procedendo con metodo finché cadrà nella fossa insieme al suo eroe e scriverà finis sulla lapide che ci sovrasta. Eccoci ora ad un episodio che ci intralcia la strada e non c'è modo di ignorarlo. È oscuro, misterioso e non documentato, quindi non c'è modo di spiegarlo. Per interpretarlo si potrebbe scrivere dei volumi e fondare sul suo significato interi sistemi religiosi. Il nostro dovere è puramente quello di stabilire i fatti, in quanto sono accertati. Il lettore ne faccia quel che vuole. Nell'estate che seguì quel disastroso inverno che vide il gelo, l'inondazione, la morte di migliaia di uomini e il crollo totale delle speranze di Orlando, perché fu esiliato dalla corte, cadde in disgrazia presso i più potenti signori del tempo, provocò la giusta collera dei Desmond d'Irlanda e il re aveva già troppi guai con gli irlandesi per apprezzarne quel supplemento. In quell'estate Orlando si ritirò nella sua grande casa di campagna e là visse in completa solitudine. Un mattino di giugno, era sabato 18, non si alzò all'ora solita, e quando il cameriere andò a chiamarlo, lo trovò profondamente addormentato e non si poté svegliarlo. Giaceva come in catalessi, senza respiro percettibile. E benché si portassero dei cani ad abbaiare sotto la sua finestra e cembali e tamburi e castagnette risuonassero giorno e notte nella sua stanza, e gli venisse messo un cespuglio d'erica sotto il cuscino e applicati impiastri di senape ai piedi, pure Orlando non si svegliò, Non prese cibo, non mostrò segno di vita per 7 giorni interi. Al settimo si svegliò alla solita ora, le 8:15 precise, e cacciò dalla sua stanza lo stuolo di comari miagolanti e di fattucchiere, cosa abbastanza naturale, ma lo strano era che non mostrava la minima coscienza della sua catalessi. Si vestì, si fece portare il cavallo come se si fosse svegliato dal sonno naturale, eppure si sospettò che qualche cambiamento fosse avvenuto nei meandri del suo cervello, perché, per quanto ragionasse perfettamente e apparisse più grave e pacato di prima, sembrava avere della sua vita passata un ricordo imperfetto. Quando la gente parlava del grande gelo, di pattinaggio, del carnevale, lui stava ad ascoltare, ma non dava mai segno, se non forse passandosi la mano sulla fronte come per cacciarvi qualche nube, di avervi assistito di persona. Quando si discutevano gli avvenimenti degli ultimi 6 mesi, non pareva tanto addolorato quanto imbarazzato, quasi fosse contrariato da vaghi ricordi di un tempo lontano o cercasse di ricordare storie udite da altri. Fu notato che se si menzionavano la Russia, principesse o navi, cadeva in una tristezza inquieta, si alzava, guardava fuori della finestra o chiamava uno dei suoi cani, o prendeva un coltello e scolpiva un pezzo di legno di cedro. Ma i medici di allora non ne sapevano più di quelli di oggi. E dopo avergli prescritto riposo ed esercizio, digiuno e nutrimento, compagnia e solitudine, riposo a letto per tutto il giorno e 40 miglia a cavallo fra pranzo e cena, insieme ai soliti sedativi e stimolanti variati a loro capriccio, da pozioni di bava di ramarro al mattino a sorsi di fiele e di pavone prima di coricarsi, lo lasciarono a se stesso e diagnosticarono che aveva dormito per una settimana. Ma se sonno era, di che natura sono, possiamo chiederci, i sonni di quel genere? Sono misure riparatrici, catalessi, in cui i ricordi più amari, gli avvenimenti che sembra debbano schiantare per sempre la vita, sono spazzati via da una labuia che ne attenua l'asprezza e indora anche i più brutti e più ignobili di un certo lustro, di una certa incandescenza? La morte deve di tanto in tanto porre il dito sul tumulto della vita per impedirle di spezzarci. Siamo dunque fatti in modo tale da dover prendere la morte a piccole dosi, giorno per giorno, per continuare ad affrontare l'impresa di vivere. E allora, quali strane forze sono queste che penetrano le nostre vie più segrete e mutano i nostri beni più preziosi senza il nostro volere? Orlando, stremato dall'eccesso della sua sofferenza, era morto per una settimana e poi resuscitato. E se è così, di che natura è la morte e di che natura è la vita? Avendo atteso per più di mezz'ora la risposta a queste domande, senza riceverne alcuna, proseguiamo il racconto. Orlando si dette dunque a una vita di estrema solitudine. Ne furono in parte causa la sua disgrazia a corte e la violenza del suo dolore, ma poiché non faceva nessuno sforzo per difendersi, e di rado invitava qualcuno ad andarlo a trovare, benché avesse molti amici che lo avrebbero fatto volentieri, è da credere che quella solitudine, nella grande casa dei suoi padri, si confacesse al suo carattere. La solitudine fu una sua scelta. Come passasse il tempo, nessuno lo sapeva con certezza. I servitori di cui aveva mantenuto un cospicuo stuolo, benché le loro mansioni consistessero in gran parte nello spolverare stanze vuote e nello sprimacciare tra punte di letti dove nessuno dormiva mai, seduti davanti al pasticcio e alla birra, vedevano nell'ombra della sera un lume errare per le gallerie, attraverso saloni da pranzo, nelle camere da letto, e sapevano che il loro signore si aggirava da solo per la casa. Nessuno osava seguirlo, perché la casa era frequentata da una gran varietà di spettri e la sua vastità rendeva facile smarrirsi e precipitare per qualche scala nascosta o aprire una porta che, se la chiudeva una ventata, vi avrebbe imprigionato per sempre. Incidenti tutt'altro che rari, come attestavano le frequenti scoperte di scheletri umani o animali in atteggiamento di atroce agonia. Poi la luce scompariva e la governante esprimeva al reverendo, il cappellano, la speranza che sua grazia non fosse incorsa in qualche disgrazia. Il reverendo opinava che senza alcun dubbio sua grazia era in ginocchio fra le tombe dei suoi avi, nella cappella, che si trovava nella corte del biliardo, nell'ala sud, quasi a mezzo miglio di là. Aveva dei peccati sulla coscienza, temeva il cappellano, al che la governante replicava piuttosto brusca che tutti quanti ne abbiamo. E la governante e la vecchia nutrice levavano tutti batté la voce in lode di sua grazia, e i valletti e i camerieri giuravano che era proprio un gran peccato vedere un così bel gentiluomo intristirsi, girando per la casa, mentre avrebbe potuto cacciare la volpe o inseguire il cervo. E perfino le piccole lavandaie, le sguattere, le Judy e le Faith, che servivano in giro boccali e piatti di pasticcio, si univano al coro per attestare la galanteria di sua grazia, perché non c'era mai stato gentiluomo più cortese o più prodigo di quelle monetine d'argento che servono per comprarsi un fiocco o un fiore da capelli. E perfino la mora, che chiamavano Grace Robinson per vedere di farne una cristiana, capiva di che si parlava e conveniva che sua grazia era un bello, un piacevole, un caro gentiluomo, nell'unico modo che poteva, cioè mostrando tutti i denti in un largo sorriso. In breve, tutti i servitori di Orlando, uomini e donne, lo tenevano in gran rispetto e maledicevano la principessa straniera, ma la chiamavano con un nome ben più crudo, che lo aveva ridotto in quello stato. Ma benché fossero probabilmente la codardia e l'amore per la birra calda a indurre il reverendo a immaginare sua grazia al sicuro fra le tombe, dispensandolo dall'andare a cercarlo, poteva ben darsi che il reverendo avesse ragione. Ora Orlando trovava uno strano piacere in pensieri di morte e di corruzione e, dopo aver percorso le lunghe gallerie e le sale da ballo, con un doppiere in mano, contemplando un ritratto dopo l'altro, come se vi cercasse una somiglianza con qualcuno che non riusciva a trovare, saliva nello stallo di famiglia e passava ore seduto a guardare gli stendardi muoversi al vento e il chiaro di luna tremolare con la compagnia di un pipistrello o di una farfalla testa di morto. Ma neanche questo gli bastava. Si sentiva spinto a scendere nella cripta, dove da 10 generazioni giacevano i suoi avi, una bara sopra l'altra. Il luogo era così poco frequentato che i topi avevano avuto agio di rodere il piombo delle bare, e ora, mentre passava, un femore gli si attaccava al mantello o mandava in frantumi il teschio di un vecchio sermalis arrotolatogli sotto il piede. Era un sepolcro sinistro, scavato profondo sotto le fondamenta della casa, come se il primo lord della famiglia, venuto di Francia con Guglielmo il Conquistatore, avesse voluto significare che ogni pompa si fonda sulla corruzione, che sotto la carne c'è lo scheletro, che dopo aver ballato e cantato di sopra dovremo giacere qui sotto, che il velluto scarlatto diventa polvere, che l'anello, qui Orlando abbassando la lanterna, raccoglieva un cerchio d'oro privo della pietra rotolata in un angolo, perde il rubino e l'occhio, così fulgido, cesserà di brillare. Nulla resta di tutti questi principi, diceva Orlando, indulgendo a una scusabile esagerazione del loro rango, fuorché una falange, e prendendo la mano di uno scheletro nella sua, ne spiegava qua e là le articolazioni. Di chi era questa mano? Continuava a chiedere. Era la destra o la sinistra, la mano di un uomo o di una donna, di un vecchio o di un giovane? Ha spinto il cavallo in battaglia o tenuto l'ago? Ha colto la rosa o stretto il freddo acciaio? Ma qui l'inventiva gli veniva meno, o più probabilmente gli suggeriva tanti esempi di ciò che può fare una mano che, come al solito, indietreggiava davanti alla fatica fondamentale del comporre, che è la selezione. E riponeva l'osso con gli altri, pensando che c'era uno scrittore di nome Thomas Brown, dottore a Norwich, i cui scritti sui temi simili lo affascinavano immensamente. Così, presa la lanterna, dopo aver badato che le ossa fossero in ordine, perché anche se romantico era singolarmente metodico e non c'era nulla che detestasse quanto un gomitolo di spago per terra, figuriamoci il teschio di un antenato, tornava a quelle strane malinconiche peregrinazioni per le gallerie, cercando qualcosa fra i quadri, finché non si interrompeva in preda a una vera crisi di pianto davanti a un paesaggio di neve di un ignoto fiammingo. Allora gli pareva che la vita non valesse più la pena di essere vissuta. Dimentico delle ossa degli antenati, dimentico che la vita è fondata su una tomba, se ne stava lì, scosso dai singhiozzi, pazzo di desiderio per una donna in pantaloni alla russa, con gli occhi obliqui, la bocca imbronciata e le perle al collo. Se n'era andata, lo aveva lasciato, non l'avrebbe vista mai più, e singhiozzava e si incamminava verso le sue stanze, e la governante, vedendo la luce alla finestra, staccava il boccale dalle labbra e, posandolo, ringraziava il cielo. Sua grazia era tornato sano e salvo. Davvero, fino a quel momento, l'aveva creduto crudelmente trucidato. Orlando allora accostava la poltrona al tavolo, apriva le opere di Sir Thomas Brown e iniziava a esplorare la struttura delicata di una delle più lunghe e mirabilmente contorte meditazioni del dottore. Sebbene non siano questi i soggetti da cui un biografo trae profitto a diffondersi, è abbastanza evidente ai lettori che finora hanno fatto la loro parte, inducendo da pochi cenni gettati qua e là l'estensione globale e la circonferenza di un carattere, quelli che sanno udire in ciò che sussurriamo appena una voce viva, che sanno vedere, anche se spesso non ne parliamo affatto, qual è l'aspetto che le corrisponde, e leggono con esattezza nel suo pensiero senza che parola li guidi. A questo genere di lettori, ed è per loro che scriviamo, sarà chiaro che la natura di Orlando era singolarmente composita di vari umori: malinconia, indolenza, passione, amore per la solitudine, per non dire di tutti i meandri e le sottigliezze di carattere indicate fin dalla prima pagina, quando assestava fendenti a una testa di negro morto, la faceva cadere dal soffitto per poi tornare cavallerescamente ad appenderla fuori portata, e infine andava a sedersi con un libro nel vano della finestra. Il suo gusto per i libri era stato precoce. Da bambino a volte un paggio lo trovava a mezzanotte ancora intento a leggere. Gli toglievano le candele e lui sopperiva allevando delle lucciole. Gli toglievano le lucciole e per poco non metteva a fuoco la casa con un acciarino. Per dirla in breve, lasciando al romanziere la cura di spianare le pieghe infinite di questa seta, Orlando era un nobile malato d'amore per la letteratura. Molti suoi contemporanei, e più ancora molti del suo rango, sfuggirono a quella peste e furono così liberi di correre, di cavalcare, di fare l'amore al loro talento, ma alcuni furono precocemente infettati da un germe che si diceva nato dal polline della sfodelo e portato dai venti di Grecia o d'Italia, e la cui natura era così fatale da far tremare la mano pronta a colpire, da velare l'occhio intento a mirare la preda e da far balbettare la lingua che proferiva il suo amore. La natura funesta di questo male era di sostituire un fantasma alla realtà, cosicché ad Orlando, al quale la fortuna aveva fatto ogni dono, vasellame, biancheria, case, servitori, tappeti, letti a profusione, bastava aprire un libro perché questa montagna di beni dileguasse in fumo. I 9 acri di pietra che formavano la sua casa svanivano. I 150 valletti sparivano, gli 80 cavalli da sella diventavano invisibili. E ci vorrebbe troppo a enumerare i tappeti, i divani, i finimenti, le porcellane, le argenterie, le ampolle, gli scaldavivande e gli altri beni mobili, spesso d'oro massiccio, che sotto l'influsso del miasma svaporavano come bruma sul mare. Così era, e Orlando restava solo, intento a leggere, nudo. Ora, in quella solitudine, il male progrediva rapido in lui. Spesso leggeva per 6 ore di seguito fino a notte alta, e quando andavano a prendere i suoi ordini per la macellazione del bestiame o per la mietitura del grano, allontanava il suo infolio e guardava con l'aria di non capire quel che gli si diceva. Era una sciagura che stringeva il cuore di Hall, il falconiere, e della governante e del cappellano. Un bel gentiluomo come lui, dicevano, non ha bisogno di libri. I libri li lascia ai paralitici o ai moribondi, dicevano. Ma il peggio doveva ancora venire, perché una volta che il male di leggere si è impadronito dell'organismo, lo indebolisce tanto da farne facile preda dell'altro flagello che si annida nel calamaio e che suppura nella penna. Lo sventurato comincia a scrivere. E se questo è già un male per il povero, che possiede solo una sedia e un tavolo sotto un tetto malandato, e quindi dopo tutto non ha molto da perdere, è davvero pietoso lo stato del ricco che ha case, bestiame, camerieri, asini e biancheria, eppure scrive libri. Il sapore di tutti quei beni gli diventa estraneo, è crivellato da ferri roventi, è roso dai vermi. Darebbe fino all'ultimo soldo, tanto quel germe maligno, pur di scrivere un libretto che gli desse fama. Eppure tutto l'oro del Peruno gli servirebbe a comprargli il tesoro di un verso ben tornito. Così langue e si consuma, il cervello gli va in fumo, se ne sta con la faccia al muro. Non importa in quale attitudine lo trovino, ha oltrepassato i cancelli della morte e conosce le fiamme dell'inferno. Fortunatamente Orlando era di costituzione robusta e il male, per ragioni che diremo subito, non lo abbatté mai quanto molti suoi pari. ma ne era assai scosso, come mostrerà il seguito. Infatti, dopo aver letto per circa un'ora Sir Thomas Browne, quando il bramito del cervo e il grido della ronda notturna gli indicavano che la notte era al culmine e che tutti dormivano profondamente, attraversava la stanza, levava di tasca una chiave d'argento e apriva gli sportelli di un gran mobile intarsiato in un angolo della stanza. All'interno c'erano una cinquantina di cassetti di legno di cedro, su ognuno dei quali era apposta un'etichetta scritta con cura dalla mano di Orlando. Si fermò, come se fosse incerto quale aprire. Una aveva per titolo la morte di Aiace, un'altra la nascita di Priamo, un'altra Ifigenia in Aulide, un'altra la morte di Ippolito, un'altra Meleagro, un'altra il ritorno di Odisseo. Insomma, non c'era quasi cassetto che non portasse il nome di un personaggio mitologico a un punto critico della sua carriera. E ognuno conteneva un documento di mole considerevole, scritto interamente di pugno di Orlando. La verità è che Orlando era malato ormai da molti anni. Mai il ragazzo aveva mendicato mele o confetti come Orlando aveva mendicato carta e inchiostro. Rifuggendo da giochi e conversari, si era nascosto dietro le tende o negli oratori segreti, o nello spogliatoio dietro la camera da letto di sua madre, il quale aveva un buco nel pavimento e puzzava maledettamente di sterco di stornello, con un calamaio in mano, una penna nell'altra e un rotolo di carta sulle ginocchia. Perciò, prima dei 25 anni, aveva scritto circa 47 tra commedie, storie, romanzi e poesie, alcuni in prosa, altri in versi, alcuni in francese, altri in italiano, tutti molto romantici e tutti lunghi. Uno l'aveva fatto stampare presso John Ball, all'insegna delle piume e della corona, di fronte alla croce di San Paolo, in Cheapside. Ma benché vederlo gli desse un'estrema delizia, non aveva mai osato mostrarlo neanche a sua madre, sapendo che pubblicare, ancor più che scrivere, era per un nobile una colpa inespiabile. Tuttavia, nel cuore di quella notte, in solitudine, scelse da quel ricettacolo un grosso manoscritto dal titolo Xenofila, tragedia o qualcosa di simile, e un altro più sottile dal titolo La Quercia, l'unico breve tra tutti, e accostato a sé il calamaio, prese la penna tra le dita e compì tutte le altre cerimonie con cui gli affetti da quel vizio iniziano i loro riti. Ma si fermò, essendo questa pausa grave di significato nella sua storia, assai più in vero di molte azioni che costringono gli uomini a inginocchiarsi e tingono di rosso i fiumi. Dobbiamo domandarci perché si fermò e rispondere, dopo matura riflessione, dandone questa ragione. La natura, che ci ha giocato tanti strani scherzi, mescolando in parti inuguali argilla e diamante, arcobaleno e granito, per poi imbottirne un astuccio spesso tra i più incongrui, perché il poeta ha la faccia di un macellaio e il macellaio quella di un poeta, la natura, che si compiace di oscurare e complicare le cose, tanto che neppure oggi, 1 novembre 1927, sappiamo perché saliamo le scale e perché le riscendiamo, i nostri movimenti più quotidiani sono come il passaggio di una nave su un mare ignoto. E quando i marinai sull'albero maestro, puntando il cannocchiale all'orizzonte, chiedono «Terra, sì o no?», noi, se siamo profeti, rispondiamo «sì», ma se siamo sinceri rispondiamo «no». La natura che dovrà rispondere di tante cose, oltre che della lunghezza forse ingombrante di questa frase, ha complicato ulteriormente il suo lavoro e ha aumentato la nostra confusione, non solo costruendoci con la pacottiglia interiore più svariata un fondo di pantaloni di poliziotto attaccato al velo nuziale della regina Alessandra, ma ha fatto anche in modo che l'intero congegno fosse cucito da un unico leggero filo. La cucitrice è la memoria, che è ben capricciosa. La memoria fa correre l'ago dentro e fuori, su e giù, di qua e di là. Non sappiamo mai quel che segue, quel che viene dopo. Perciò il gesto più comune del mondo, come sedersi a tavolino e avvicinare a sé il calamaio, può sconvolgere mille frammenti bizzarri e sconnessi, ora lucenti, ora scuri, che danzano e svolazzano e si agitano come il bucato di una famiglia di 14 persone in una bufera di vento. Invece di riuscire una bell'opera solida e squadrata di cui nessuno debba vergognarsi, le nostre azioni più comuni svolano in un inquieto batter d'ali, in uno sfarfallare intermittente. Fu così che Orlando, intingendo la penna nell'inchiostro, vide il viso beffardo della principessa perduta e subito si fece un milione di domande che erano come frecce intinte nel fiele. Dov'era? Perché lo aveva lasciato? L'ambasciatore era suo zio o era il suo amante? Erano d'accordo? Era stata costretta? Era sposata? Era morta? E ogni domanda gli instillava tanto veleno che per sfogare in qualche modo la sua angoscia intinse la penna tanto a fondo nel calamaio che l'inchiostro spruzzò sul tavolo. Gesto che, comunque lo si voglia spiegare, e forse non c'è spiegazione possibile, la memoria è inesplicabile, cambiò subito il volto della principessa in uno di tutt'altro genere. «Ma di chi era?» si chiese. E gli ci volle forse mezzo minuto prima che, guardando la nuova immagine, che si era sovrapposta alla precedente, come una figura di lanterna magica che lasci trasparire la successiva, Orlando potesse dirsi «Questa è la faccia di quell'uomo grassoccio e malandato che era seduto nella stanza di Twitchett tanti anni fa quando la vecchia regina Bess venne a cena qui e lo vidi». Continuò Orlando, prendendo al volo un altro di quegli straccetti variopinti. Lo vidi seduto al tavolo, gettando un'occhiata mentre scendevo le scale e, disse Orlando, aveva gli occhi più straordinari del mondo. Ma chi diavolo era? Si chiedeva, perché alla fronte e agli occhi la memoria aggiungeva prima un collaretto rozzo e unto, poi un farsetto bruno e infine un paio di scarponi come li portano i borghesi a Cheapside. Un nobile non era. «Non uno di noi», disse Orlando. «Non l'avrebbe certo detto ad alta voce, essendo il più cortese dei gentiluomini, ma questo dimostra l'effetto di una nascita nobile sulla mente e anche, incidentalmente, quanto sia difficile per un nobile essere uno scrittore. Un poeta, direi». La memoria, che l'aveva ormai stuzzicato abbastanza, per la verità a questo punto avrebbe dovuto cancellare tutto quanto, oppure fare saltar fuori qualcosa di così stupido ed incongruo, un cane che rincorre un gatto o una vecchia che si soffia il naso con un fazzoletto di cotone rosso, che, impotente a tenere il passo coi suoi ghiribizzi, Orlando avrebbe risolutamente dato di piglio alla penna e messo nero su bianco. Si può, con ferma volontà, scacciare di casa quella pettegola della memoria con tutta la sua grottesca paccottiglia. Ma Orlando si fermò. La memoria continuava a presentargli l'immagine di un uomo malandato dai grossi occhi vividi e continuava a guardare ancora fermo. Sono queste pause che ci rovinano. È allora che la rivolta penetra nella fortezza e le truppe insorgono. Già una volta si era fermato e l'amore, coi suoi orribili sovvertimenti, i suoi pifferi e cembali, le sue teste spiccate dal busto con le chiome insanguinate, aveva fatto irruzione in lui. Per amore aveva sofferto le pene dell'inferno. Ora si fermò di nuovo e dentro la breccia così aperta balzarono ambizione, la fattucchiera, poesia, la strega e brama di gloria, la sgualdrina. E presesi per mano gli danzarono sul cuore. Eretto, nella solitudine della sua stanza, giurò che sarebbe stato il primo poeta della sua stirpe e che avrebbe conferito lustro immortale al suo nome. Disse, enumerando i nomi e le gesta dei suoi avi, che Sir Boris aveva combattuto e ucciso l'infedele, Sir Gawain il turco, Sir Miles il polacco, Sir Eichard l'austriaco, Sir Andrew il franco, Sir Jordan il francese e Sir Herbert lo spagnolo. Ma di tanto in tanto uccidere, guerreggiare, bere e amoreggiare, sperperare e cacciare e cavalcare e banchettare, cos'era rimasto? Un teschio? Un dito? Mentre invece, disse volgendosi alla pagina di Sir Thomas Browne aperta sul tavolo, e di nuovo si fermò, come un incantesimo che sorgesse da ogni angolo della stanza. Dal vento notturno e dal chiar di luna fluiva la divina melodia di quelle parole che, per non umiliare questa pagina, lasceremo dove sono sepolte, non morte ma piuttosto imbalsamate, tanto fresco è il loro colore, tanto vivo il loro respiro. E Orlando, paragonando quell'opera a quelle dei suoi avi, esclamò che essi e le loro gesta erano polvere e cenere, mentre quest'uomo e le sue parole erano immortali. Si accorse presto, però, che le battaglie impegnate da Sir Miles e dagli altri contro cavalieri catafratti per conquistare un regno erano molto meno ardue di quelle che ora lui intraprendeva contro la lingua inglese per conquistare l'immortalità. Chiunque abbia una lontana dimestichezza con le asperità dello stile ci dispenserà dal riferire i particolari. Orlando scriveva e tutto gli pareva buono, leggeva e gli pareva abominevole, correggeva e stracciava, tagliava, aggiungeva, andava in estasi, cadeva nella disperazione, aveva notti propizie, mattini funesti, coglieva volo idee che poi perdeva, si vedeva davanti tutto il libro e poi gli svaniva. A tavola recitava la parte dei suoi personaggi, passeggiando la declamava, ora piangeva, ora rideva, oscillava fra questo e quell'altro stile. Oggi preferiva quello eroico e pomposo, domani quello semplice e piano, ora le valli di Tempe, ora i campi del Kent e di Cornovaglia. E non avrebbe saputo dire se era il genio più divino o il più grande idiota di questo mondo. Fu per risolvere quest'ultimo problema che decise, dopo molti mesi di quelle ardue fatiche, di interrompere una solitudine annosa e di riprendere contatto col mondo esterno. Un suo amico di Londra, certo Jill Isham di Norfolk, conosceva degli scrittori, benché fosse di nobile nascita. Senza dubbio avrebbe potuto metterlo in contatto con qualche membro di quella beata, anzi santa confraternita. Perché nello stato d'animo in cui era ora Orlando, un uomo che avesse scritto e stampato un libro godeva di una gloria che offuscava tutte le glorie di sangue di censo. Alla sua fantasia, anche i corpi di coloro che erano animati da tali divini pensieri apparivano trasfigurati. Certo avevano aureole per chioma, incenso per respiro, e rose dovevano spuntare loro sulle labbra, il che di sicuro non succedeva né a lui né al suo cappellano, e non riusciva a figurarsi felicità maggiore di quella di ascoltarli parlare seduto dietro una tenda. Al solo immaginare quei discorsi arditi e vari, trovava di una estrema brutalità gli abituali temi di conversazione tra lui e i suoi amici a corte: un cane, un cavallo, una donna, un gioco di carte. Ricordò con orgoglio che l'avevano sempre chiamato pedante e deriso il suo amore per la solitudine e i libri. Non era mai stato capace di tornire frasi galanti. Nelle stanze delle dame se ne stava impalato, arrossiva e camminava con passo da granatiere. Due volte, immerso in profonda astrazione, era caduto da cavallo. Una volta, mentre componeva versi, aveva rotto il ventaglio di Lady Winchelsea. E richiamando avidamente queste altre prove della sua inettitudine alla vita di società, lo invadeva l'ineffabile speranza che tutta la sua turbolenza giovanile, le sue goffaggini, i suoi rossori, le lunghe passeggiate, l'amore per la campagna, provassero che egli apparteneva alla razza sacra piuttosto che a quella nobile, che fosse per nascita uno scrittore piuttosto che un aristocratico, e per la prima volta, dopo la notte della grande inondazione, si sentì felice.